La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, benvenuti oggi venerdì 25 di ottobre, qui in diretta a 16:36:33 e grazie anche a chi ci ascolta in podcast. La versione di Oscar, di cosa ci occupiamo oggi? Il tempo è poco, quindi non farò altre parole se non entrare subito nel merito della questione. Ieri al Ministero dello Sviluppo Economico si è aperto un tavolo, erano anni a dire la verità che la filiera a cui questo tavolo è dedicato, la filiera industriale, lo chiedeva. Finalmente siamo arrivati a questo, non che i tavoli risolvano molto di fronte a crisi come quelle di cui vi darò qualche numero adesso, però comunque il problema riguarda un settore molto importante per l'economia italiana, il futuro dell'auto e di tutta la componentistica, l'automotive. E allora due numeri per capire quanto è terribile l'abisso in cui siamo caduti in questi anni di crisi. Pensate che nel 2012 si sono prodotte in Italia poco più di 395.000 autovetture, queste 395.000 autovetture, se le confrontate con quelle che si producevano nel 1989, beh, se ne producevano 1.970.000, per capirci, cioè il numero di autovetture prodotte nel 2012 è quello prodotto in Italia nel 1958, per capirci. E per capirci, nella Spagna, in ginocchio per la crisi, bene, nella Spagna se ne producono 2.200.000 rispetto ai nostri 395.000. Nel 2014, visto che la Spagna sta uscendo, già al segno più dal secondo trimestre di quest'anno, se ne produrranno almeno 2.400.000. Ora, la mia opinione, ve l'ho detta tante volte per chi ci ascoltava negli anni, è che forse abbiamo sbagliato la politica di tutela di un unico grande produttore, la Fiat. La Spagna non ha produttori nazionali, ma in compenso con la Seat, Volkswagen e con altri produttori di case automobilistiche che sono stati attirati in Spagna, producono 5 volte più di noi. Inutile però recriminare sul passato. Ieri si è aperto questo tavolo al Ministero dello Sviluppo con il ministro Zanonato, un tavolo a cui i protagonisti della filiera hanno finalmente avuto un interlocutore. Chi sono i protagonisti della filiera? Sono l'ANFIA, che è l'Associazione Nazionale della Filiera Industria Automobilistica, naturalmente c'era Fiat, c'era l'URAE che rappresenta i produttori esteri che vendono in Italia e anche producono, perché abbiamo qualche parte minoritaria della produzione che però è direttamente controllata anche dai tedeschi, molto piccola rispetto a quello che le case automobilistiche tedesche, che vanno benissimo nel mondo, hanno in altri paesi europei, ma ce l'abbiamo. E c'era Federauto, c'era l'ACI, e abbiamo con noi per capire di che si tratta, se ci sono aiuti, non aiuti, agevolazioni fiscali. Sapete che sull'auto il pugno del fisco è pesantissimo, ci sono circa 20 tributi diversi che gravano su un autoveicolo, dall'immatricolazione alla tassa provinciale, le accise naturalmente sulla benzina, l'imposta sul riciclo degli oli e così via. Sentiamo da Roberto Vavassori, che è qui con noi, presidente dell'ANFIA, dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, che cosa concretamente, non solo i dipendenti della Fiat e delle altre stabilimenti di auto in Italia, ma tutta la filiera, diverse decine di miliardi della componentistica, possono ragionevolmente sperare da questo tavolo che si è aperto ieri. Buongiorno e grazie presidente Vavassori. Buongiorno a lei, intanto grazie per la premessa che è stata molto chiara e sintetica sullo stato veramente difficile del nostro settore e sulla comparazione con qualche altro attore europeo. Allora, il governo di che vi parla in realtà? Allora, intanto vorrei dire, se consente, una piccola cosa di dizionario: non un tavolo ma una consulta. L'intenzione di ANFIA, quando ha proposto al ministro Zanonato e al Ministero dello Sviluppo Economico già a luglio questo strumento, intende istituire un organo permanente e non un tavolo volontaristico di questo o quest'altro ministro. Esattamente come c'è in altri grandi paesi europei. Bravissimo, noi infatti non vogliamo inventare l'acqua calda o la ruota tutte le volte, ci ispiriamo alle migliori practice, ai migliori esempi europei, in questo caso ci ispiriamo all'Automotive Council inglese, che in soli 4 anni ha saputo attirare 6 miliardi di nuovi investimenti nell'automotive. Già. Allora, di cosa abbiamo parlato ieri? Beh, ieri è stata la prima riunione, diciamo il numero zero di quello che speriamo sia una raccolta efficace di incontri. Numero zero, intanto la prima valenza, l'ha detta lei, tutti gli attori di una filiera intorno allo stesso tavolo. E io credo che in questo paese che tanto amiamo, e dobbiamo tornare ad appassionarci a questo nostro paese, la prima cosa è ridurre il livello di entropia. In termine biblico è Babele, in termine fisico è entropia. C'è troppo caos, ci sono troppe disarticolazioni tra i diversi attori di una stessa filiera. Quindi avere tutti intorno al tavolo è già stato un gesto importante di coordinamento. Darsi un obiettivo è l'altra cosa assolutamente fondamentale per sapere dove andare, e allora anche in questo caso l'obiettivo l'abbiamo davanti a noi. Sono i nostri competitor europei, i nostri partner europei, che con la metafora ciclistica stanno scattando in avanti in gruppo e noi invece rimaniamo drammaticamente indietro. Metodologicamente ci siamo detti che lavoreremo per gruppi di lavoro molto specifici e, così come ricordato da tutti, con obiettivi, sotto obiettivi dettagliati e in grado di raggiungere, senza mettere, diciamo, sogni e visioni troppo lontane. Quindi avremo tavoli a perimetro variabile, li abbiamo definiti così. Quando parleremo di mercato, quindi di vendite, avremo determinati attori. Quando parleremo di assicurazioni e di come ridurre il costo delle assicurazioni in maniera molto pragmatica, altri. Quando parleremo di misure industriali, che è poi il cuore dell'iniziativa della consulta, avremo ancora diversi interlocutori. Parliamo un secondo di quello che a vostro giudizio metterete all'interno di questa consulta. Iniziamo dalle misure industriali. Che cosa concretamente si potrebbe fare secondo voi? Partiamo dall'obiettivo, come diceva il buon Leonardo da Vinci, non si volge chi a stella è fisso. Il nostro obiettivo è uno: creare un ambiente competitivo per le nostre aziende in Italia, capace di radicare quello che già c'è e mantenerlo, capace addirittura di attrarre realtà estere. Sembra un sogno? Può sembrare un sogno. La Spagna negli ultimi 5 anni ha attratto a sua volta 4 miliardi di nuovi investimenti. L'ha ricordato lei, non c'è un produttore nazionale, ma Ford, Renault, Peugeot, Citroën, Nissan, tutti hanno aumentato le proprie produzioni in Spagna. Nello stesso periodo noi abbiamo perso il 40%. Secondo lei siamo in tempo per recuperare quello che per decenni, insomma, non abbiamo un po' voluto fare, cioè attirare altre aziende automobilistiche mondiali nel perimetro del nostro paese? Diciamo che il tempo ha giocato fortemente a nostro sfavore. Oggi in Europa, nell'Europa 27, calcoliamo una sovracapacità produttiva sia di componenti che di veicoli completi che sfiora il 40%. Questo vuol dire che dovremmo chiudere fabbriche anziché aprirne di nuove. Quindi siamo veramente in controtendenza. Però il fatto che le case costruttrici e i componentisti in totale abbiano investito in questi ultimi 5 anni nell'Europa dell'Ovest, la vecchia Europa, diciamo così, circa 20 miliardi di euro, vuol dire che è una corsa difficilissima, è una lunga corsa a tappe, ma io credo che non sia troppo tardi, se guardo soprattutto alla qualità e alle competenze che abbiamo ancora in Italia. Sbaglio se dico che in realtà nella componentistica, ovviamente, chi aveva investito nella filiera alta del valore aggiunto, eccetera, eccetera, però in questi anni di crisi si sono avuti anche segnali di una componentistica che tradizionalmente, come era ovvio, lavorava per l'azienda leader italiana, la Fiat, ma che poi di fronte alle necessità del mercato e degli altri produttori che andavano bene, immagino e penso soprattutto quelli tedeschi, ha saputo dimostrare sul campo che poi riesce a vincere le gare per dare i componenti anche alle case automobilistiche tedesche. È un po' questo anche la cosa che bisogna fare, al di là di chi si riesce a tirare in Italia? Commento centrato il suo. Oggi in Italia abbiamo produzione di componenti per 40 miliardi di euro, con un'esportazione che sfiora il 50%. Diciamo che le valenze italiane, le competenze, la flessibilità, l'ingegno italiano di tante anche piccole aziende che hanno saputo trovare la via dell'export o stabilirsi direttamente in mercati esteri ha pagato e quindi non ha sofferto come invece ha sofferto la produzione degli autoveicoli. Certamente il mercato tedesco è il nostro mercato di riferimento. In un'Europa che complessivamente non cresce a livello di vetture prodotte, noi dobbiamo sempre più appassionarci di tecnica, appassionarci di ricerca e sviluppo e con queste armi, non con le armi dimensionali, perché le nostre aziende quando sono grandi sono un quinto, un decimo o un ventesimo delle concorrenti tedesche sì. Quindi non è la dimensione, ma è il valore aggiunto. Bravissimo. Esattamente, certo. Allora adesso abbiamo il minuto di formazione stradale a proposito e poi torniamo per vedere quali incentivi possibili, visto che qui di aiuti vecchio stile non se ne può giustamente, secondo me, parlare. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:48 e 37 secondi. Oggi venerdì 25 ottobre parliamo della consulta dell'automotive che si è aperta ieri, dopo tanto tempo in cui il settore la richiedeva. Prima di ridare la parola al presidente Roberto Vavassori dell'ANFIA che è qui con noi, due risposte rapidissime ad ascoltatori che hanno mandato sms. Il primo forse non ci ha ascoltato ieri abbiamo parlato di banche, ci chiede: ma nella finanziaria le banche sono servite o riverite o c'è anche poca roba per loro come per noi, dove per noi è piccola impresa e lavoratori? No, ne abbiamo parlato ieri, per le banche c'è molto e proprio di questo abbiamo sottolineato, perché c'è un diverso regime di ammortamento delle perdite sui crediti incagliati, c'è alle molte quotate che hanno quota di Banca Italia un bel tra virgolette regalo di capitale con la nuova valutazione delle quote di Banca Italia che hanno, c'è un ulteriore aiuto perché lo Stato si accolla i derivati di copertura dei titoli del debito pubblico che lo Stato vuole che le banche continuino a comprare. Quindi no, le banche hanno sgravi molto più significativi, a mio giudizio, di quelle che sono riservati alle imprese e al lavoro. La seconda domanda è una domanda che dice dell'autotrasporto, non parlate mai. Ne parleremo, perché l'autotrasporto da una parte è un settore che molti altri settori dell'economia produttiva considerano, per via di alcune centinaia di milioni l'anno di incentivi, troppo incentivato. Dall'altra, nella legge di stabilità, ieri abbiamo appreso che c'è una diminuzione delle detrazioni sulle accise del carburante proprio per l'autotrasporto e quindi per migliaia di piccole imprese un'ulteriore parte del margine rispetto alle concorrenti straniere se ne va, esattamente perché lo Stato pesa troppo con le sue pretese fiscali sul carburante. Quindi ne parleremo. Torniamo da Vavassori, presidente dell'ANFIA. Allora, quando si parla di incentivi possibili, si era parlato in queste ultime settimane da una parte di incentivi per le rinnovabili, diciamo così, per motori ibridi e così via. Però, seconda cosa che ha allarmato molti ascoltatori, è sembrato che questi incentivi fossero a carico degli acquirenti dei veicoli, perché poi andavano a picchiare sulla polizza assicurativa. Come muoversi in queste indiscrezioni, Presidente? Allora, intanto ieri è stato chiarito da tutti i soggetti e soprattutto dal Ministro e dal Sottosegretario presenti che non si sta ad oggi esaminando alcun tipo di incentivazione del tipo che conosciamo dagli anni precedenti e tutti noi abbiamo preso atto di come gli incentivi in realtà, se presi da soli e non accompagnati da un quadro più complessivo, anche nell'esperienza degli altri paesi europei, hanno solo portato a una congestione di vendite e a un terribile deserto successivamente. Quindi non sono lo strumento per fare ripartire il mercato in maniera sostenibile. Questo credo che sia il principio forte che vada ribadito. Al secondo punto, certamente è da considerare che l'Italia, dal punto di vista delle emissioni e della riduzione delle emissioni del circolante, è già un paese virtuoso, perché è per il secondo anno consecutivo che siamo vicinissimi con le nuove vendite al limite di CO2 imposto da Bruxelles per il 2015. Quindi il nuovo parco circolante italiano si avvicina già moltissimo a questo. Con queste due premesse. E contemporaneamente, io credo, però, proprio perché oramai gli italiani stringono la cinghia, abbiamo una percentuale del parco circolante che è ancora molto più vecchia in media di altri paesi europei, quindi forse lì si potrebbe intervenire. Interessante che 4 anni fa il nostro parco medio come anzianità era più giovane di circa un anno rispetto a quello tedesco, ed era una cosa quasi inverosimile. Dopo 4 anni stiamo scivolando a un anno di anzianità maggiore, superiore al parco tedesco. Ma allora che cosa fare? Noi proponiamo ancora una volta di guardare il plotone di ciclisti europei davanti a noi e, per esempio, le flotte aziendali possono costituire, come costituiscono negli altri paesi europei, oltre la metà del parco del parco circolante. Ma qui lo Stato sul fisco è, diciamo, molto meno generoso che in altri paesi europei per le aziende e i beni strumentali, i veicoli strumentali. Bravissimo, le ultime due manovre sono andate esattamente nella direzione opposta, allontanandoci dall'Europa. Allora noi ci siamo proposti nelle prossime settimane, molto pragmaticamente, di proporre delle tabelle, dei calcoli che esamineremo insieme ai ministeri interessati, non escluso ovviamente quello dell'economia, per dire dov'è il punto di pareggio tra una deducibilità di tipo europeo dei costi delle flotte aziendali rispetto alla necessità di non peggiorare i conti dello Stato, ma attenzione, in senso allargato il beneficio, perché questi operatori delle flotte sono operatori che hanno un mix di acquistato a valore aggiunto più elevato dei privati negli ultimi anni, garantiscono un indotto in termini di manutenzione e di rinnovo costante e costituiscono negli altri paesi europei lo zoccolo duro, diciamo così, del venduto anno su anno. Quindi questa è la prima cosa. Certamente ancora vogliamo ridurre in maniera molto pragmatica il costo di esercizio dell'automobile, quindi ridurre i costi assicurativi in maniera molto chiara e trasparente, non per arricchire le compagnie di assicurazione, ma per ridurre lo spreco e, diciamo, il malcostume in tanti casi accompagnato alle assicurazioni, alle truffe, al fatto che le assicurazioni non vengono pagate. Certo, e questo significa premi più alti da pagare. Io la devo interrompere perché il tempo è finito, ma approfitto di questo per dire che nella legge di stabilità c'è una cosa che picchia proprio, purtroppo, con un aggravio nel settore degli autoriparatori, proprio connesso all'assicurazione, perché c'è la cancellazione della cessione del credito, e questo farà soffrire, invece che agevolare, purtroppo, chi è nel settore delle autocarrozzerie. Anche questo, naturalmente, nella filiera ha molto sofferto. Grazie al presidente Vavassori, seguiremo e torneremo sull'autotrasporto, questa filiera dell'automobile, perché è fondamentale per l'Italia. Rimanete su Radio 24, appuntamento lunedì.